Chini 5 a capire che cosa succede, e ce lo dice appunto Jenny Piroli, detta anche Sensila o Crensila, se è cosa, non lo so se è cosa oppure no, comunque lo scopriremo. Buonasera a tutti, a voi in studio e agli ascoltatori di Cox Spaziale, e grazie per aver scelto di dedicare una parte del vostro tempo alla nostra iniziativa intitolata Creare connessione, arte, lavoro e nuovi orizzonti. Sono Sensila Piroli, conosciuta anche come Jenny, e da oltre un decennio mi dedico alla consulenza in ambito delle risorse umane. Il mio incontro con l'associazione Palco è venuto grazie al mio amico e collega Lorenzo Berselli, fondatore e consigliere dell'associazione. Quando ho scoperto questa realtà, da subito ho sentito un forte desiderio di farne parte. Sono entrata infatti nell'associazione nel 2023 e a partire da marzo 2024 ho avuto il privilegio di assumere il ruolo di consigliera. Cos'è Palco? Palco è l'acronimo di Politiche Attive Lavoro e Collaborazione, coinvolge persone con esperienze e competenze diverse, da operatori del settore a professionisti, sindacalisti, a imprenditori, a ricercatori. È un'associazione nata nel 2022 con l'obiettivo di promuovere il dialogo e l'analisi critica intorno al mondo del lavoro e delle politiche economiche. Ogni mese organizziamo incontri in cui affrontiamo tematiche di grande attualità, coinvolgendo esperti e favorendo ovviamente il dibattito. L'idea dell'iniziativa come nasce? Mi sono posta una domanda semplice: cosa potrei fare io per Palco? Una riflessione che mi ha portato a immaginare un'iniziativa capace di mettere in dialogo due mondi che amo e che considero vitali: il lavoro e l'arte. Ci ricordiamo tutti che durante il periodo pandemico il mondo dello spettacolo è stato il più colpito. I lavoratori di questo settore infatti si sono trovati in difficoltà economiche e senza tutele adeguate. Culturalmente purtroppo bisogna ammettere che si fatica a riconoscere pienamente l'arte come una professione con diritti e dignità pari a quelli di qualsiasi altro lavoro. Questa iniziativa nasce quindi per riflettere su queste problematiche, per dare voce ai professionisti del settore e ribadire che senza arte e cultura non può esistere un futuro sostenibile. Per esplorare queste tematiche abbiamo coinvolto Donatella Allegro, attrice e formatrice di straordinaria sensibilità, e Davide Conte, economista ed ex assessore al bilancio e alla cultura. Insieme analizzeremo il tema del lavoro da due prospettive complementari, quella di un operatore artistico e quella di un amministratore pubblico. Spero che questa iniziativa possa accendere una riflessione profonda, ispirare nuove idee e contribuire a valorizzare l'arte non solo come espressione di bellezza, ma come motore di crescita sociale, economica e culturale. Grazie nuovamente e a presto. Grazie a te. Chi è che dice ciao qua? Perché abbiamo anche degli ospiti che non avevamo invitato. Tipo, in che senso? Tipo Luca Rossi. Cosa fai? Buonasera, Luca Rossi, a tutti. Buonasera a tutti. Aspetta che ti alzo un attimo, che sei troppo basso. Ecco, vai, parla. Ero in città e quindi non potevo non accettare questo invito. Hai il microfono spento, secondo Come? Me. Come? No, prova. Sì. Per me è acceso. È acceso? Secondo me è spento. Comunque, vabbè, prova ancora. Pronto? Prova. Sì. Io mi sento. No, anch'io ti sento. Ti sento forte e chiaro. E quindi poi avrò tante cose da fare qui a Bologna nei prossimi giorni, quindi dovevo elencarle in qualche modo. No, ribadisco che il tuo microfono è spento. Okay. Prova a schiacciare verso su quell'affare lì. È già su, eppure è spento. Ah. Vabbè. No, va. Ma si sente. Allora ci sei. Ci sono. Ci sei. E quindi fatemi delle domande in qualche modo. E datevi delle risposte. Sì. E poi abbiamo Andrea Meregalli, cazzo, sei venuto qua da Monza fino mi, a, a no. Mi batto le mani da solo, addosso però me le batto. Esatto, battiti il belin che... da solo. Ma e poi abbiamo Dora Casadio. Eh sì. Presenza assenza. No, la presenza fondamentale. Che mi è stata compagna nel viaggio e sarà anche nel viaggio di ritorno. Soprattutto nel ritorno, visto che avete portato. Allora facciamo così: che Luca Rossi spiega chi è Dora. Dora spiega chi è Meregalli e Meregalli spiega chi è Luca Rossi. Inizia Meregalli. Inizia Meregalli, e che ovviamente. Non può che dire che è ora di finire questa farsa. Luca Rossi sono io, quindi Luca Rossi è inutile che io mi presenti da solo, e forse è meglio che mi presenti qualcun altro. Luca Rossi, parla di Luca Rossi, per favore. Ma chiunque può essere Luca Rossi, ecco, quindi riprendo la parola all'istante. Allora io parlo di Luca Rossi, visto che chiunque può essere Luca Rossi. Luca Rossi è chiunque, però sappiamo che dal 2009 dal 2009 c'è questo collettivo. Sì, infatti qua siamo strettissimi perché siamo tantissimi. Siete tantissimi. Nel mondo dell'arte non solo chiunque può essere Luca Rossi, ma chiunque può fare tutto. Cioè tutti i ruoli del mondo dell'arte sono in una persona che si chiama Luca Rossi. Quindi questo ci dà una grande opportunità di libertà che spesso però non cogliamo. Nel senso che ognuno fa per sé. Chi fa per te, quindi questo era l'unico modo ovviamente per fare, a prescindere dai malanni del mondo dell'arte. E se uno fa tutto in un solo ruolo, cioè fa il curatore, fa l'artista, fa l'ufficio stampa, fa il direttore di uno spazio, almeno abbiamo la possibilità di agire liberamente senza dover sottostare a il doping delle pubbliche relazioni, ecco. E se uno invece fa Marco Roma, cosa succede? Marco Roma potrebbe essere un'altra... Mi ricordo di te, di tutto quello che ti ricordi di me, delle cose belle, ti ricordi di noi. Da Marco Roma, buongiorno. Buongiorno a te, Marco. Buongiorno Marco Roma. Marco Roma è colui che tutti i giorni lascia un vocale cantato a Radio Città Fuggito. E noi naturalmente l'abbiamo eletto Luca Rossi della situazione. Certo. Per cui vieni al Mambo a fare una performance anche tu. Ecco, il 5 febbraio tutti al Mambo a essere Luca Rossi. Che in quella sede farà Marco Roma. Farà Marco Roma, giusto? Sì, potrei. Poi il 30 gennaio all'Accademia di Belle Arti di Bologna. È vero, ma chi è che ti ha invitato a fare questa cosa? Ma ha invitato un direttivo? Un grande artista chiamato Leonardo Santoli. Sì. Che poi salutiamo perché è malato, poverino. Può essere che sia malato fino al 30 gennaio. Perché è lunga quest'anno, Quando te la prendi la E quindi il 30 gennaio alle ore 10. All'Accademia di Belle Arti, Aula Magna, aperto a tutti. Non solo a Luca Rossi. Ma che per cui è un giovedì alle 10. E stavolta non farai una conferenza stampa da solo. No, ho preparato una performance inedita che aprirà questo incontro, che però sarà anche un confronto, sarà una cosa. Il titolo è Luca Rossi nudo. Quindi tutti nudi. Tutti finalmente. Nudi. Finalmente tutti nudi in Accademia. E quindi il nudo poi in Accademia dovrebbe essere all'ordine del giorno. Che ahimè a Bologna non c'è più la scuola libera del nudo, che infatti non si capisce perché. Io volevo dovrei sollevare questa cosa. Perché. E quindi scopriremo tutto di Luca Rossi, come è nato, il prequel, quello che è successo prima. Un po' come Batman, no? Che fanno il prequel, Begins, il Cavaliere Oscuro, è un po' così. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Anch'io. Invece chi è che deve spiegarci chi è Dora Casadio? È Luca Rossi. Ero io. Dora Casadio è una bravissima e bellissima project manager che si occupa di arte contemporanea a livello internazionale, ha lavorato per molte fondazioni in tutto il mondo. Arte contemporanea. Volevo sottolineare che si occupa di arte contemporanea. Perfetto. E dunque cosa fai di bello, Dora? Per chi e perché? per Luca Rossi, naturalmente. Cioè, in realtà avete fatto una sorta di lobby stasera per prendervi Radio Città Fujiko, che da domani si chiamerà Radio Luca Rossi. Luca Rossi. E, anzi, com'è che ha detto Trump oggi? Welcome to the golden age of coxo spaziale. Sti gran cazzi. Anzi, ci vorrebbe così. E poi abbiamo Andrea Meregalli, che è detto anche culo miau perché costruisce questi fantastici fumetti chiamati culo miau, ma soprattutto un liquorino di culo miau, di cui adesso vengo a versarmi un altro bicchierino, visto che il mio è finito. È un rifillino di liquorino. E che questa sera, ricordiamo, trattasi di Melissa e Timo. Esatto, così stiamo tranquilli. Le proprietà rilassanti della Melissa. Perché e tutti voi in realtà siete venuti qua per annunciare tutto quello che farete. Sì, esatto. Tutto quello che farete durante Art City, perché io la settimana prossima non parlerò di Art City, per cui è bene parlarne ancora prima. Allora, inizio io? Sì. Vuoi che cominci? Allora, vi aspetto innanzitutto al Museo dell'Homme, che c'è già in corso la mostra di Luca Rossi. Il Museo dell'Homme è un museo che è protetto, accolto al Museo Medievale di Bologna, mm-hmm. però vi invito ad andarlo a vedere, quindi senza farvi rovinare l'anteprima dal mondo digitale. Quindi andate fisicamente al Museo Medievale, all'interno troverete il Museo dell'Homme. E Luca Rossi ha fatto un progetto che durerà fino all'8 febbraio. Cioè, non ho capito, è una casa dentro una casa? Come funziona sta faccenda? È una cosa dentro una cosa, però non voglio appunto rovinarvi la sorpresa. Quindi bisogna andare fisicamente al Museo dell'Homme, all'interno del Museo Medievale. Io naturalmente vi sto prendendo per il culo, perché il Museo dell'Homme è curato dalla nostra Chiara Pergola, che oggi per evitare un conflitto di interessi è rimasta a casa, mentre giusto. Invece io, che sono qua, vi dico che la mia mostra finisce il 24, per cui se non l'avete ancora vista andate in via Aldo Moro 50 tutti i giorni dalle 9 alle 18 a vederla. Perfetto. Che noi siamo venuti appositamente prima per poterla vedere. Infatti. E io la andrò a vedere. Sì, ci crediamo volta, poi domani. Sì, sì, no, ci passo davanti tutti i giorni. Tutte le volte che vengo a Bologna, quindi. Però non sei ancora andato. Non sono ma perché non viene mai a Bologna? Ma verrà il 30, per cui. Il 30 per cui la mostra sarà già finita. Perché cui chiude il 28. Il 24, questo venerdì. Questo che è il mio compleanno, che è il tuo compleanno, per cui viva Luca Rossi, finalmente compiamo tutti gli anni il 24 febbraio. Non sapevo di essere un acquario. Acquario. Luca Rossi è acquario. Mi sembra giusto. E poi c'è il 30 gennaio all'Accademia di Belle Arti alle ore 10 nell'Aula Magna. Okay. Poi il 5 febbraio intervento di Luca Rossi al Museo Mambo a sorpresa clandestino sarà, per cui la cosa più divertente. Lorenzo Balbi non lo sa, se per caso vi capita di dire: ma è vero che Luca Rossi fa una performance al Mambo? Non diteglielo, perché non è vero. E poi il 7 febbraio alle 19:30, booming, se non ne avete ancora abbastanza. E lì ci saranno due sorprese. 19:30 di Luca mm-hmm. Rossi. E poi infine l'8 febbraio alle 21:45, davanti al Museo Medievale di Bologna, performance per le vie di Bologna con microfono. Porteremo 10 oggetti simbolo in 10 luoghi simbolo di Bologna. What's the worst thing? Spaventoso, non ho fatto neanche in tempo a venire a prendere un po' di liquorino, perché questo pezzo di Jenny Onions, che si chiama First Person, dura 40 secondi. E vabbè. Quindi la parola al mio amico Luca Rossi, qui vicino. Ecco, Luca Rossi, tu invece che cosa farai quest'anno a Booming? Io quest'anno? Con lo pseudonimo. di Andrea Menegalli. Di Andrea Menegalli, oppure Colomiao? No, no, Andrea Menegalli, no, perché stavolta... il disturbo di personalità riesco a gestirlo abbastanza bene. Capisco. Di conseguenza Colomiao andrà... andrà a culo miau. Andrà a culo miau. Affari. Affari. Miau. No, vabbè, allora sarò presente a Booming con... Ma innanzitutto che coxo è Booming? Infatti, scusate. Booming è la collateral. La di, collateral di Arte Fiera. A Palazzo Isolani. No, facevo il cretinetto. Ah, stavolta a Palazzo Isolani. Yes, Palazzo Isolani. È isolato dentro Palazzo Isolani. Yes. Ah, che bello. No, questo Grand mi fa class. Piacere perché in effetti devo dire che al Dumbo era un po'. Cioè, invece pieno era centro. Un po' isolato. Invece isolato a Palazzo Isolani è molto meglio. In super centro. Super centro. Grande. Ma però volevo dire, cioè, ha invitato Luca Rossi e Luca, perché non ha invitato me come Luca Rossi stavolta? Okay. La nostra rossa del nostro cuore. Perché tu stato... puoi presentarti come Luca Rossi e fare quello che vuoi. Anzi, ti daranno il padiglione Italia alla Biennale. Ah, giusto. Giusto. Infatti, no, anche perché è tutto l'elenco delle cose che ha. Che ha sviscerato il qui, come dire, presente Luca Rossi, mi ricordava un po', adesso mi aspetto una nomina alla permanente, un qualcosa alla quadriennale, cioè, è pazzesco. Lo meriterei. Ha lavorato di PR. Ha lavorato di PR. Perché il mio obiettivo è entrare nel sistema e scardinarlo da dentro. Ma sì, ma forse anche fermandosi alla prima. Alla prima entrare porta. Nel sistema, poi non scardinare nulla, che intanto lì alla fine ti troverai comodo. Il problema è che è noiosissimo il sistema, quindi... E allora non entrarci nemmeno. No, è bello entrarci okay. e allora dovresti stare sulla soglia. Infatti la performance, bravo, la performance vedi. Museo Mambo sarà sulla soglia. La soglia. Né dentro né fuori. Ecco. Ti appoggi. Perché hanno una soglia che è abitabile al Museo Mambo. Cioè un appartamento, è un loft la soglia del Museo Mambo. Ma dunque Luca Beatrice e Luca Rossi anche lui? Eh sì. Assolutamente. Così come Tosatti naturalmente. Certo. Ovvio. Luca Rossi ha fatto una pubblicità, Tosatti che... Ma invece Dora Casadio, da quanto tempo sei Luca Rossi tu? Io? Da stasera? Da stasera, ma il 30 gennaio sarò anch'io nuda in Brera. Ah sì? A Brera nuda però in Brera. In ogni... All'Accademia di Belle Arti. Okay, glitchato. Scusate, perché c'è, non l'abbiamo detto, allora, che c'è anche a Milano? Una collegamento certo c'è il Luca Rossi diffuso ma l'ha deciso il collettivo non te l'ha detto no, beh, ma cioè, il collettivo va un po' per i fatti suoi per cui chi di voi risiede a Milano vi consiglio di andare in Aula Magna a vedere Luca Rossi nuda che è molto più interessante che non vedere Luca Rossi nudo all'Accademia di Milano è una città più importante quindi giustamente abbiamo dei Luca Rossi migliori migliori ho capito no comunque sarò Booming tornando seri tutto nudo una tutto cosa. Nudo ovviamente questo non lo sa nessuno però lo potremo inserire nel programma e ci sarà anzi no non sarò presente nel senso ci sarà un lavoro fatto con intelligenza artificiale pensa ecco. A te ecco e di conseguenza come dire che si chiama effetti a indesiderati ovvero utilizzare come prompt il bugiardino di un farmaco antidepressivo vedere che cosa l'intelligenza o presunta tale artificiale ci ha restituito. Quindi non si tratta di utilizzare l'intelligenza artificiale in modo consono e consueto, ma appunto chiedendole di elaborare tutti gli effetti indesiderati di questo farmaco antidepressivo che non citerò anche se posso solo dire che il principio attivo è escitalopran e tu dici cazzo io invece volevo anche dire che se qualcuno di voi è riuscito a tornare indietro nel tempo e a vedere appunto ad andare all'associazione Palco a vedere al 5C Lab creare connessione arte lavoro e nuovi orizzonti ci messaggi al 333 180 94 94 perché magari c'è un Luca Rossi che è riuscito a viaggiare nel o anche tempo. Uno che si chiama Michael J. Fox anche esatto che magari è riuscito a, e poi ci può dire che cosa è successo insomma ottimo molto bene e che cosa volevo dire nel frattempo. Avevo un pezzo che però non lo trovo più. Perché non lo trovo più? È sempre questo? Sono Teresa Ricci, stai ascoltando il Corso Spaziale. Non era questo. Ah, era questo, eccolo qua, guarda. Io alzo i microfoni quando state dicendo le cose più sconce, esatto. Ma è comunque non c'è bisogno che ti denudi anche qua, Licarossi, cioè un minimo di contenuto. Perché volevo iniziare a parlare del sistema. Se volete vedere Luca Rossi tutto nudo domattina su coxospaziale.blogspot.com ci saranno tutte le foto, sir, che io sto scattando come se non ci fosse un domani. Yes sir. Ma perché ha questo bisogno di denudarsi sempre? Perché io voglio la verità. Questo esternare. Il vestito è menzogna. Ho capito, ma però quindi... con un coxo di plastica lungo così non è proprio verità, questo. Verità. Infatti. Prego? Cioè, con questo coxo di plastica che stai vestendo, non è proprio veritiera questa. Ma poi sei uno che nasconde le opere, fa degli Hidden Words e si mette a nudo. A questo proposito, mi dispiace, no, vi devo interrompere perché mi sono accorto adesso che sono le 20:30 e parte questa. Film. No, parte il film, esatto. È finita la trasmissione e parte questa cosa così. Incredibilmente siamo tornati in diretta e qua sta succedendo di tutto nello studio. Sento dei rumori strani. Io mi sono rivestito intanto. Esatto, infatti. Innanzitutto appunto Luca Rossi ha... Anche perché c'era Dora che non riusciva a resistere con tanta maestà. E dunque è successo qualcosa di inaspettato. È uscito il libro rosso di Luca Rossi. È uscito il libro rosso di Luca Rossi, che era già uscito in teoria, non in teoria, in realtà, un paio di anni fa, ed era stato già pubblicato il libretto rosso, sì, di Luca Rossi. Avevo visto qualcosa. Che contiene 32 pagine diviso in capitoli, come potete ricordare anche come era costituito il famoso libretto rosso di qualcun altro, e ogni capitolo lo possiamo leggere stasera insieme, è capitolo 1 già detto nel 2009, capitolo 2 già detto nel 2009, capitolo 3 l'ho già detto nel 2009, capitolo 4 l'ho già detto nel 2009, capitolo 5 l'ho già detto nel 2009, capitolo 6 l'ho già detto nel 2009, 7 già detto nel 2009, 8 l'ho detto nel 2009, 9 detto nel 2009, 10 già detto nel 2009, 11 già detto nel 2009, 12 l'ho già detto nel 2009, 13 già detto nel 2009, 14 l'ho già detto, sì, nel 2009. Ma la domanda è che andiamo cosa avanti, hai infatti detto nel 2009? Possiamo arrivare alla fine e ci conclude con già detto. È vero. Già detto. È vero. Quindi, siccome questo è il famoso libretto di Luca Rossi, è bellissimo, che avrei voluto regalare a Luca Rossi, ma penso che essendo troppo un'opera di Luca Rossi, essendo un'opera di Luca Rossi, non posso regalarla a Luca Rossi, essendo tra l'altro un'opera visibile, non può essere regalata. Allora è arrivato un bel Hidden Work. Ah, bellissimo! Hidden Work. Tienilo lì così. Che è un Luca Rossi più Maurizio Cattelan, più Andrea Regali, più culo miao, anche bellissimo, perché lo apriremo. Ah, lo apriremo? Lo apriremo. Okay. Solo il collezionista che l'acquista può decidere. Però in questo caso è l'artista che te lo regala o se lo autoregala. Quindi bisogna aprirlo. Bisogna aprirlo. Però manca la Chiara Pergola in questa lista di artisti. È scritta dietro. Ah, non si ecco vede. Ok. È nascosta. No, anche perché cos'è tutto questo maschilismo qua? Infatti, attenzione. Anche perché Luca Rossi è una donna, ma lo sapete. Ma Culo Miao non si sa cosa sia, no? Però una cosa che vorrei anche dire... Culo Miao è una donna. Infatti, anche Culo Miao è una donna. Che adesso lo apro. Apri, che io ho in mano il microfono. Lo apro, tu tieni il microfono. E adesso possiamo far vedere, e ci spiegherà Luca Rossi il perché questo elenco di artisti che sostanzialmente sono. Allora abbiamo il libretto rosso di Luca Rossi, che ha preso il posto della banana di Maurizio Cattelan. Che però, attenzione, ti sei dimenticato, Luca Rossi e Andrea Meregali, il Cattelan, il Luca Rossi perché è un Indian Wars, ma c'è il culo miao, perché il culo è miao una cosa dove? Fatta alla culo, ovvero è un fake, non è il libretto, ti ho fatto una fotocopia e quindi ti regalerò una fotocopia, okay. Lo scotch è volutamente sbagliato, nel senso nel colore, non è quello di non Cattelan, è quello, però l'indicazione del 175 cm da terra c'è. Quindi questo è il tuo bel pezzo di intonaco. Bellissimo. Ed è un pezzo di intonaco. La banana andava a 175 centimetri da terra. Molto bello. Per i telespettatori... Aspetta che ti fotografo un attimo. Per quelli che domani guarderanno... I radio aspettatori. Grazie mille. Molto bello. Mentre invece... Perde anche. Fortunatamente ho i miei pantaloni da studio da Zelensky. Mentre invece se qualcuno vuole dire delle stupidaggini vocali su WhatsApp 333 180 94 94, perché tanto tutto quello che dite sarà parola di Luca Rossi, per cui certo. Il vero protagonista della serata. Hai capito. E adesso invece tocca di fare sta cosa qua, l'angolo della menzione, che ahimè la nostra Chiara Pergola, che si è persa nei meandri del tempo in cui voi intanto fate tutto il casino possibile immaginabile lì di dietro, no, dico, lei si è persa nei meandri del tempo, è tornata indietro nel tempo, per cui l'angolo della menzione mi tocca di farlo tutto a me. E domani che è il martedì 21 gennaio dalle 17 alle 19 partono le inaugurazioni del Mambo, per cui Silvia Buckley Before, a cura di Lorenzo Balbi, che invece è al Museo Morandi. Silvia Buckley è considerata una delle artiste più importanti a livello internazionale nel campo del disegno. Lavora utilizzando fogli di carta bianca di diverse dimensioni, qualità e tonalità e diverse tecniche che spaziano dall'inchiostro di china al carboncino, dalla gouache ai pastelli. La mostra è realizzata in collaborazione con la Galleria Raffaella Cortese. L'ingresso è gratuito, tutto questo è al Museo Morandi, ovvero al Mambo, in via Don Minzoni 14 a Bologna. Bologna. Volevi aggiungere qualcosa? Bologna per me è provinciale. Regi okay. Minore. Adesso non esageriamo. No, perché insomma. Devi fare invece, 2000 cose, appunto, giovedì 23 gennaio 2025, sempre alle ore 18, la sala conferenze del Mambo non ospita Luca Rossi, bensì ospita la presentazione del libro Inappropriabili, relazioni, opere e lotte nelle arti performative in Italia 1959-1979 di Annalisa Sacchi, in conversazione con Roberto Pinto, storico dell'arte, curatore docente universitario, e Pier Sandra Di Matteo, studiosa, drammaturga e curatrice. Anche qui l'ingresso è gratuito ed è alla sala conferenze del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Lo stesso giorno, alla stessa ora, giusto per non sbagliare, dunque giovedì 23 gennaio alle ore 18, Se chiudo gli occhi il buio non mi vede, a cura di Niccolò Bonecchi. È una doppia monografica dedicata all'artista Luca Freschi, che collega la raccolta Lercaro e la galleria Ariete Contemporanea, che invece ha inaugurato un po' prima. L'atto secondo di questa mostra, appunto, è ospitato nella Project Room della raccolta Lercaro dal 23 gennaio all'interno della programmazione artistica curata dal direttore Giovanni Gardini. Tutto questo alla raccolta Lercaro in via Riva di Reno 57 a Bologna. È facile, no, per me dire raccolta Lercaro. E venerdì 24 gennaio alle ore 17, dalle ore 17 è il compleanno di Luca Rossi, ma dal 25 gennaio al 30 marzo il Mambo, Museo d'arte moderna di Bologna, del settore Musei Civici Bologna, presenta una nella sede di Villa delle Rose, cioè tutta appositamente per te, presenteranno una mostra incredibile, ovvero Carol Rama Unique Multiples, a cura di Elena Re, un progetto espositivo realizzato in collaborazione con Jacobacci e Partners nell'ambito del progetto Fuori Sede, che rientra nel programma istituzionale di Art City Bologna 2025, realizzato in occasione di Arte Fiera. Appositamente ideata e realizzata per gli spazi espositivi di Villa delle Rose, Carol Rama di Caffi Unique Multiples intende mettere in luce l'importante corpus di multipli prodotto da Carol Rama tra il 1993 e il 2005, ovvero prima che fosse il 2009, che Luca Rossi anno aveva, di nascita di, esatto, anno di nascita di Luca Rossi. E dunque Carol Rama non è Luca Rossi, perché è morta prima, ahimè. Comunque andatela a vedere, perché sarà la mostra sicuramente più interessante che c'è durante Art City, a parte quella di Luca Rossi naturalmente. Questa è in Villa delle Rose, in via Saragozza 228 a Bologna. Poi invece, sicuramente ho mancato un sacco di roba, ma oggi io c'avevo un workshop di legatoria. Anzi, saluto Ele e saluto Erika Marzucchi, che non è venuta perché doveva andare a Idice, ma facciamo finta che abbiamo fatto la trasmissione su di lei, perché è Luca Rossi anche lei. Okay. E dunque sicuramente ho mancato un sacco di eventi che ci saranno questa settimana, perdonatemi. Ma sabato 25 gennaio invece, dalle ore 18, abbiamo Onorio Bravi con Liturgie Cromatiche, un progetto a cura di Erika Fuschini, in collaborazione con Pallavicini 22 Art Gallery e CARP, Associazione di Promozione Sociale. La mostra ad ingresso libero sarà visitabile tutti i giorni durante l'orario di apertura del cinema e si concluderà domenica 30 marzo, perché questa è al cinema Odeon di via Mascarella. E basta, perché adesso si fanno le mostre anche nel cinema ovunque. È finita lì la faccenda, per cui adesso possiamo tornare a non so quale dei tre Luca Rossi interpellare. Forse Luca Rossi d'ora. Absolutely, che sicuramente ha qualcosa da raccontare a proposito di Luca Rossi. E come la vivi? Allora, il 30 gennaio l'abbiamo detto. Come la vivi? come la vivi questa Luca Rossaggine di stasera? Beh, è bello avere un alter ego così rinomato. Sinceramente, quando indosso le sue vesti mi sento... Ti stanno larghe? Ti senti alta 1,75 m, come, sì, come la banana di Cattelan o il libretto rosso di Luca Rossi. Giusto? Esattamente. Comunque... Scusa, volevo solo dire questo fatto, che adesso si sta ridendo e scherzando sul libretto, ma a breve, quando Radio Fujiko diventerà Radio Luca Rossi, esatto, verrà distribuito il disco rotto di Luca Rossi. Bellissimo. Che sarà ovviamente stampato in vinile rosso, rotto, e conterrà solo rotto, conterrà solo una traccia, in quanto rotto continuerà a ripetere è già stato fatto, l'ho già detto nel 2009, esatto. Direi che ci sta così. Ogni battuta che fate io vi faccio così. Va bene? Va bene. Piacevole. Molto piacevole. Se non vi occupate dell'arte contemporanea, l'arte contemporanea si occupa di voi e sono guai dopo. Un'ottima, mi sembra un'ottima idea. Aspetta, che stavo cercando. Ah, guarda. Lo stacco? Stavo cercando questa cosa qua che è... Sono Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale. Basta. Era lui veramente? No, era Giancarlo, certo. Noresi no. che faceva Cesare Pietro Iusti. Perché anche Pietro Iusti è Luca Rossi, non volevo dire, però. Ah, cavoli, magari Pietro Iusti ha il suo di collettivo, però. Sono Cesare Pietro Iusti. Se Norese fa Pietro Iusti, non vogliamo interferire fra collettivi. Spaziale. C'è un casino di collettivi. Cioè, ci sono un sacco di Pietro Iusti, alter ego, e un sacco di anche Giancarlo Politi, Massimiliano Tonelli, sono tutti Luca Rossi. Hai capito? È un po' come la P2, diciamo. Su questo. Che poi sta cosa dei collettivi. Wow! Excitement unlocked. Wow! Wow! Questa è una canzone. Wow! Holy shit, that rock! Cioè, qualcosa. E dunque. Sì. Non finiscono mai le sorprese, giusto? Sì. Perché. Non sappiamo cosa dire. E sono solo le 20:44. Ma infatti, per cui stiamo parlando dell'intelligenza artificiale e di quello che Andrea Marigalli presenterà a Booming. Giusto? Sì, no, ne abbiamo in parte parlato e vabbè, il tutto parte da quando? Tutto il periodo, quindi tutto non c'è un momento, cioè, ecco, diciamolo. Sempre. Cioè, è già là. Okay. No, vabbè, ovviamente la durata della fiera, sì, non ci sono sorprese in questo. Sì, sì. Booming a Palazzo Isolani, bravo. Uno paga il biglietto, entra e vede, oltre a Luca Rossi nudo, vede un video di Andrea Marigalli sull'intelligenza artificiale. Su un utilizzo sbagliato dell'intelligenza artificiale, perché è un po' questa abitudine di fare le cose un po' sbagliando. Ecco, una cosa che vorrei dire che potrebbe essere gradita a questo governo, no? Cioè, io sono un'eccellenza del Made in Italy, perché sbaglio tutto, e anche sbagliare tutto è una forma di eccellenza, no? Di conseguenza, l'utilizzo sbagliato degli strumenti, cercare di farli deviare, è una cosa che a me viene molto bene. Lo faccio nella vita, pensa te, con l'intelligenza artificiale è proprio da dilettanti. Sì. Un'eccellenza unicellulare. No, e poi è un modo per andare a sporcare questa intelligenza artificiale, che sennò è tutto troppo pulito. Anch'io la sto utilizzando in modo un po' così, un po' folle. Ah sì? Sì, sì. Anche quella? Sì. Ah, ma il presente è adesso o adesso? O adesso alle 18 o adesso era adesso. Questo l'ho messo per Chiara, perché il presente era alle 18. Poi non ho capito, visto che cominciava alle 18, come ha fatto alle 20:46 a non presentarsi a Corso Spaziale, però lo scopriremo solo facendo così. Ta-da! Adesso lo sappiamo. Adesso. questo naturalmente è Coxo Spaziale, stiamo parlando di arte contemporanea, anche se non sembrerebbe, perché infatti, qual è il problema dell'arte contemporanea, Luca Rossi? Ma il problema dell'arte contemporanea oggi è la noia, cioè l'incapacità di essere efficaci rispetto al nostro presente. Quindi ci sono queste orge, queste fiere dove tutto è esposto, dove tutto è simile, intercambiabile, e in questo caos, anche se ci fosse una cosa interessante, rischia di soffocare. E quindi il problema è che ci vogliono luoghi e tempi per salvarsi dalla noia e ritrovare le ragioni e le motivazioni dell'arte contemporanea, perché se non ci sono, ne possiamo fare a meno, non è che ce l'ha ordinato il dottore di... Sì, questo è vero, anche se secondo me il vero problema dell'arte contemporanea è parlarne. Cioè, non vorresti parlarne tu? Parlarne. In realtà molti ascoltatori di Radio Città Fujiko ritengono che il vero problema dell'arte contemporanea sia parlarne a Radio Città Fujiko. Ah. Infatti c'era un ascoltatore che ogni tanto mi diceva: ah, comincia Cox Spaziale, cambio canale. Mi dispiace per lui. No, infatti. Però allo stesso tempo l'arte contemporanea, se tu non te ne occupi, ti trova lei in modalità... Ma è diverso occuparsene e parlarne, cioè sono due cose completamente diverse, volendo un po' vedere. Cioè, è un modo di occuparsene, però è uno dei tanti. E quindi, vabbè, io lo lascio ad altri. Ma no, va bene. E così finì questa puntata. Sono io in 47. No, c'è qualcos'altro che Luca Rossi voglia dire. Aggiungi qualcosa all'arte contemporanea. Non esiste più la critica d'arte, è ovvio. Ma no, c'è Luca Rossi. A parte Luca, esatto. Rossi. Sono solo. Sono l'ultimo dei moicani. Però anche la troppa critica troppia. Esatto. Non lo sapremo mai, flick perché non c'è, quindi. Cioè, chiaramente nella moltitudine è difficile distinguere le cose di però qualità cosa... nel marasma, però certo. Qual è la soluzione? La soluzione è avere, secondo me, più punti di vista per allenare nuovi occhi. Esatto. Se no accettiamo tutto. No, però la cosa che secondo me è interessante è il fatto che, vabbè, in un paese magna come l'Italia ci può stare che tutta questa fiacca abbia questa valenza dove non c'è più nulla di nuovo, ma fuori dall'Italia, dove comunque le dinamiche non sono così mafiose, perché la faccenda è comunque fiacca? Ma perché le dinamiche in realtà sono le stesse. Cioè, le dinamiche sono le stesse in un contesto ipercompetitivo dove non può emergere nulla, perché dobbiamo pensare che ci sono artisti che semmai pagano all'estero, non so, $50,000 per fare un master in fine art, e a questi devi assicurare obbligatoriamente una visibilità post master. Hanno trovato una soluzione a questo. Gli danno fuoco alla casa ai genitori di Los Angeles, capisci? Esatto. Loro fanno il master a Yale, ma i genitori gli va fuoco alla casa, per cui... Ci ho pensato anch'io. Non dar spago a Elon Musk e a Trump per le loro teorie complottiste. E quindi welcome to the golden age of Luca Rossi. Luca Rossi. Esatto, of contemporary art. No, se voi pensate, no, negli ultimi 23 anni 23 perché io penso che l'11 settembre sia un giro di boa dell'arte contemporanea, poi vi spiegherò nella prossima puntata. Okay. 23 anni e 6 mesi. Quindi, negli ultimi 23 anni, in realtà, a livello internazionale non emergono artisti realmente rilevanti, come avveniva negli anni 90, no? Quindi c'è un problema proprio di omologazione, di livellamento del linguaggio, di crisi del linguaggio. È un momento neomanierista di transizione dove non riesce a emergere nulla, no? E quindi bisogna trovare nuove modalità, e Luca Rossi le sta cercando, insomma, fallendo, perché poi va a booming e diventa parte del mainstream. Va a booming, ma anche fuori da booming, è dentro e fuori, e sulla soglia. È sulla soglia. Comunque si va, tutti vanno per tentativi un po', cioè nessuno ha veramente consapevolezza poi di quello che sta facendo, magari fra 10 anni quell'artista di poca, cioè se tutti poi comunque se tutti andiamo a booming, anche tu fai le cose a caso, se così. La valenza comunque no. Ma diciamo che Luca Rossi ha fatto tanti progetti fuori dal sistema, il problema è che e perché il sistema lo ingloba, no, perché l'idea, l'idea per esempio vi faccio un esempio concreto, ad Art Verona io ho creato una galleria in una notte e sono riuscito a portare degli artisti che erano esclusi dal sistema in un modo sostenibile, quindi andando a rivedere totalmente la liturgia del mondo dell'arte. Ed è stato un successo. È stato un successo di vendite, di vendite pubblico. Di pubblico, certo. E quindi si può, è ovvio che tutto ciò avviene in laboratorio. Se mi dessero la possibilità di uscire dal laboratorio. Ho trovato l'incipit. Luca Rossi, un altro mondo dell'arte è possibile. Esatto. Mi applaudo da solo. Proprio questo. Molto bene. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E questo era Cox Spaziale, io ero Luca Rossi e naturalmente ringraziamo tantissimo i nostri ospiti, Luca Rossi e Luca grazie, Rossi. Grazie. Andrea Meregalli. Ora per sempre. Andate a vedere Andrea Meregallo. Le brigate Luca Rossi. Aspetta, perché culo, dunque, miau. Culo miau su Instagram, Andrea Meregalli su Instagram, documenta live, live su Instagram e Dora invece no, Dora? Lei è nascosta. Dora l'esploratrice su come si chiama? Instagram. No, su Disney Channel. Ho nascosto. No, infatti siamo tutti pronti a seguirti, ma tu non ti lasci seguire, non giustamente. Mi meraviglio che sei venuta in giro con questi Luca Rossi. Molto bene. E naturalmente ci rivediamo in televisione. Assolutamente. No, ci vediamo il 30. Il 30 all'Accademia. A Brera. Il 30 all'Accademia. All'Accademia di Brera avremo una Luca Rossi nuda. E a Bologna un Luca Rossi nudo. Abbassiamo le aspettative. Abbassiamo le aspettative. E vabbè. Lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, Coxo Spaziale sarà con voi di nuovo, per cui tenetevi pronti per cambiare canale.